Vogliono ordinare? Non siamo ancora pronti. Oh, would you order for me? It'll take me ages to go through the menu. Va bene. Allora, ordiniamo. Benissimo. Mi dica. Allora, due antipasti toscani, poi due penne all'arrabbiata. Ah, le piace il cibo piccante? Sorry? Sì, scusi. Do you like spicy food? Yes, I do. Allora sì, prendiamo due penne all'arrabbiata.